Lettera sulla vita contemplativa di Guigo II. Il fratello Guigo al suo caro fratello Gervasio. Gioisci nel Signore. Amare te, o fratello, è per me un debito perché tu per primo hai cominciato ad amarmi. E mi sento obbligato a risponderti perché con la tua lettera mi hai per primo invitato a scriverti. Mi sono perciò proposto di comunicarti alcune mie riflessioni sulla vita spirituale dei monaci, finché tu, che conosci questa vita per esperienza, mentre io ne ho solo una conoscenza teorica, sia giudice e correttore di queste mie considerazioni. Meritatamente offro a te per primo queste primizie del mio lavoro, perché tu raccolga i primi frutti di una pianta novella che, sottratta con lodevole frutto e delicata sollecitudine alla schiavitù di Faraone, tu hai collocata nella schiera dei combattenti, innestando amabilmente sull'olivo il ramo reciso con arte dall'olivastro.